ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Le 8, 19 minuti e 42 secondi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino di lunedì 12 ottobre, al microfono sempre Simone Spezia. Più avanti nel corso della trasmissione alle 8.35 ospiteremo Luca Palamara, radiato pochi giorni fa dalla magistratura, e poi sarà con noi il professor Andrea Crisanti, ovviamente per parlare di Covid. Ed è dalle questioni che riguardano Covid che iniziamo oggi nel nostro spazio con Paolo Mieli. Ciao Paolo, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Io vorrei iniziare. Giornata importante. Sì, sì, direi proprio di sì. Io vorrei iniziare con te però da abbiamo dato una notizia nei giorni scorsi, questa Great Barrington Declaration. Che cos'è la Great Barrington Declaration? Una dichiarazione firmata da 15.000 persone tra medici, specialisti e via dicendo, che di fatto sembrava quasi favorire l'idea di perseguire la via dell'immunità di gregge invece che andare avanti con i lockdown e via dicendo. Ebbene, che peccato cosa... che le firme, esatto, fossero farlocche, in gran parte farlocche, però almeno rimane interessante. Almeno una parte. Cioè, tra le firme c'è il dottor Johnny Bananas, poi c'è uno che si è firmato come laureato all'università di tua madre, e ce n'è un terzo che si è firmato con il primo verso della Macarena. No, ragazzi, è una storia bellissima, e ha guadagnato, ovviamente è stato su tutte le pagine dei giornali naturalmente, però ecco, una parte delle firme è falsa, si sappia. Una parte è falsa, però visto che avrai Andrea Crisanti ieri ha lanciato una piccola bomba da Lucia Annunziata, ha detto, si è chiesto come mai i più importanti universitari esperti non sono di questi temi, non sono nel comitato tecnico scientifico. Che cos'è questa storia? Cioè, effettivamente c'è una discrasia fra il comitato tecnico scientifico e il consiglio, anche ieri è rimasto unito tutto il giorno, spesso almeno a guardarlo da fuori, a discutere questioni di lana caprina, non lo so, chiusura dei ristoranti alle 24, ora forse volevano dire chiusura di tutti i locali pubblici, ma le discoteche sono già chiuse e i ristoranti onestamente alle 11:30 ti dicono che il cuoco non cucina più. Insomma, non è che per discutere la chiusura alle 24 ci voglia neanche un quarto d'ora di riunione del comitato tecnico scientifico, e poi tutte quelle altre norme, non si possono fare feste in casa, non si possono fare partite di calcetto. A me sembrano, a questo punto, ne sappiamo abbastanza, sembrano tutte cose distraenti, insomma, tutte cose non di grande momento, però servono anche a lanciare l'allarme. Sì. E non è il solo Crisanti a fare dei rilievi, li fa anche Massimo Clementi del San Raffaele, Francesco La Foca del Policlinico Umberto I, La Foca o La Foce, non so, Le Foce, scusami. Sì. Che dicono che ci trattano come bambini, che sono, insomma, c'è una certa insofferenza dei medici che non fanno parte del comitato tecnico scientifico nei confronti di quello che succede, che sta accadendo. In Inghilterra sembra il paese più avanti verso la decisione di fare un nuovo lockdown, anche se io ancora non ci credo. L'ha detto un loro Fauci, che è il professor Peter Hornby, che ha detto: attenti che se andiamo avanti di questo passo, in Inghilterra c'ha una media di 12-13 mila contagiati al giorno. E poi, sai, la cosa che più mi colpisce è la maledizione che colpisce i negazionisti. Sì, secondo me questa maledizione ha colpito due volte il tennista Djokovic, perché primo l'ha fatta ammalare, e Djokovic è stato un importante negazionista in questi mesi, prima l'ha fatta ammalare o comunque lo ha contagiato. E ieri ha perso clamorosamente, non era lui, è stato umiliato davvero nella sì, partita da dire che Nadal, da dire che Nadal ha fatto una partita perfetta, fatto, diciamolo da appassionato di tennis ti dico che ha fatto una partita perfetta, è vero che però forse questo Djokovic non era lui ieri, non era lui, non per il contagio, non era lui perché non era all'altezza, cioè sì, poteva metterlo più in difficoltà. Comunque Nadal è arrivato a un record storico, ha agganciato Federer con i 20 slam, così come Hamilton, visto che ci siamo, facciamo sì, una deviazione sullo sport, ha agganciato Schumacher con le 91 vittorie in Formula 1 e il figlio di Schumacher, come avete visto tutti in televisione, ha fatto un gesto molto carino, gli ha donato il casco del padre. Del padre, sì. Però ricordati, attenti alla maledizione del negazionista, sì, ci sono alcuni negazionisti che io... Negazionisti intendiamo non quelli che negano l'esistenza del morbo, ma dicono che si ma sta no, esagerando, ma state esagerando, eccetera, eccetera. Paolo, ti vorrei portare un po' su un po' di politica italiana, perché avrai visto questo, anzi, lo sentiamo Luigi Di Maio, sentiamolo, va. E non mi fossilizzerei su Sala, la Raggi o altri nomi, perché questi sono sindaci uscenti. Per me la Raggi ha lavorato bene, dovremo affrontare il tema insieme di tutte le città senza scaricare nessuno. Sì, però è un po' come scaricarla questo, eh? È un po' come scaricarla, anche se il primo che si è irritato sono stati i milanesi, amici di Sala, che hanno detto come Sala non si discute. La Raggi sì che si può discutere, ci sono anche interviste di esponenti del PD che ne chiedono il ritiro, ma la questione che sopra, come hanno sentito anche adesso gli ascoltatori, è: se li vogliamo discutere, non è che ritiriamo i nostri e voi al PD e voi vi tenete i vostri. Se vogliamo fare una discussione complessiva, d'accordo. Se è una discussione per fare o candidati del PD alle prossime comunali o candidati neutrali e concordati, che poi come si è visto in Umbria e in Liguria perdono questi candidati neutrali, cioè i terzi candidati, così non si può procedere. Ed è una bella rogna che si mette sul tavolo di Zingaretti, che già ne ha una enorme, il Cado Calenda, che continua a riscuotere grandi approvazioni. Calenda si è candidato, ha annunciato che forse entro la settimana si candiderà a sindaco, ha usato anche lui l'ultimatum, l'espediente esatto, famoso espediente della caducazione. Ti devo segnalare che il viceministro Cancelleri ha detto che adesso basta, adesso basta, l'ha detto due giorni fa, ha detto basta, si va avanti con la revoca ad autostrada, basta, ora basta. Io non la, quella basta, non la seguo più, mi avverti tu, mi fai un fischio quando stavolta basta davvero, stavolta basta. Ok, l'ha detto Cancelleri, quindi io mi fido. E comunque Calenda, insomma, ha delle grandi aperture da parte di tutti gli ex renziani di Italia Viva, gli ex renziani che sono rimasti nel PD. Oggi scende in campo Giorgio Gori, ieri è sceso in campo, l'altro ieri, per Luigi Castagnetti, che è un esponente sì, molto importante dell'ex Partito Democristiano. In settimana, il 17, se vuoi tenere il conto, si riuniranno i grillini filo dem, okay, si faranno riunione. Tieni questa data, segnatela, perché 17. Questo non è motivato. Nel nostro calendario, ci appuntiamo anche il 17. Paolo, vorrei portarti su le ultime due cose, e sono tutte e due vaticane. La prima è questo richiamo del Papa allo stesso Vaticano. Dobbiamo dare più potere alle donne, devono essere più presenti anche nelle nostre strutture, niente male. Molto interessante, mi ha colpito a proposito di questo, la Stampa l'ha messo bene in evidenza, ha pubblicato un articolo di Lucetta Scarafia, che è stata importante, insomma, nel commento e nella gestione a margine dei Code Vaticane negli ultimi anni, che è entusiasta di questa dichiarazione del Papa, però gli ricorda che primo si era impegnato a immettere lui stesso, perché è lui il potere di fare dei passi che siano esemplari, E poi gli ricorda anche una vicenda un po' scabrosa, che ci sono numerosi casi documentati, iperdocumentati, di suore religiose che sono state violentate da esponenti del clero, perché non hanno violentato alcuni, una minoranza, quello che volete, solo bambini, ma anche delle religiose, alcune delle quali sono state poi costrette ad abortire. Insomma, una vicenda molto scabrosa, che è un giallo segreto che si nasconde nella Chiesa, e su cui il Papa il 5 febbraio del 2019, di ritorno dal viaggio a Abu Dhabi, si impegnò a fare chiarezza. Stiamo lavorando, disse. Sì, vicenda molto interessante. L'ultima cosa sulla quale ti voglio portare, vabbè, un po' più leggera, però Renato Farina sul Libero ci informa che, leggo il titolo, in Vaticano i cardinali bevono come delle spugne, cioè secondo il Californian Wine Institute, che censisce ogni due anni i consumi di vino stato per stato, ebbene, il Vaticano è il posto nel quale il vino si consuma di più in assoluto, più anche della Francia, più dell'Italia, più di tutti. Ho letto l'articolo, è interessante che Farina fa una distinzione dal vino usato per la messa e l'altro vino, e dice che a parte quello usato per la messa, ce n'è abbondante anche dell'altro, insomma, di vino che non entra, che consumato in Vaticano, ed effettivamente questo record non è 73 male, ma bottiglie a testa, 73 bottiglie a testa all'anno. Beh, niente male, niente male. Anche tu ce ne hai 72, mi sembra, ho letto California Wine Institute. Vengo calcalcolato come stato a parte io. Senti, visto che avrai Palamara in linea, oggi è un giorno di trionfo per Palamara sui giornali, perché tutti trattano il Consiglio Superiore della Magistratura come un organo che lo ha condannato per nascondere i propri scandali, come se all'inizio di Tangentopoli, ricordi, tu eri bambino, 1992, si fosse preso Mario Chiesa e invece di prenderlo come il capo di una matassa, fosse stato processato, pubblicamente condannato, senza ascoltare la voce della sua difesa e soprattutto senza ascoltare i testimoni che lui avrebbe chiamato in causa, perché Mario Chiesa fu quasi una sorta di piccolo pentito, non fu un pentito, ma insomma, effettivamente, solo che tutti gli obiettano a Palamara, ma perché non cominci tu a raccontare almeno due o tre vicende in cui hai trattato importanti nomi con nomi e cognomi, invece di limitarti a commentare quelle registrate dal Troia, che esattamente che registrava di intermittenza, che esattamente una delle domande che gli voglio fare. Grazie Paolo, ci sentiamo domani mattina, dopo il GR delle 8. A domani. Tre giorni fa Luca Palamara è stato radiato dalla magistratura. Il tutto affonda nelle radici in un'inchiesta che lo ha riguardato, e al centro di tutto c'è questa riunione notturna della quale si è parlato infinitamente in un hotel romano il 9 maggio del 2019, con cinque consiglieri del CSM che poi si sono dimessi e i parlamentari Luca Lotti e Cosimo Ferri. Al centro di tutto, se vogliamo allargare lo sguardo, oltre il singolo caso di Palamara e oltre il singolo caso di questa cena, c'è il come vengono distribuiti gli incarichi in magistratura, sull'opacità che caratterizza un determinato sistema, sulla degenerazione correntizia, così è stata chiamata. Luca Palamara è con noi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Si sente un capro espiatorio, Palamara? Guardi, in questo momento io mi sento più determinato, ovviamente, a fare i ricorsi, in ogni caso a ristabilire la verità di quanto è accaduto, sia con riferimento al fatto specifico, nel quale ovviamente non intendo sottrarmi, di quella della famosa notte ormai dell'Hotel Champagne, sia in generale su quella che è stata la mia attività come esponente di una corrente, e quindi anche con riferimento alla distribuzione degli incarichi direttivi. Il mio interesse non fare chiamate di corretà capro espiatorio. Fatto sta che io non ho nessuna intenzione di pagare per tutti e penso che sia quanto mai fondamentale nell'interesse di tutti, perché la giustizia è un bene superiore, hanno interesse che la giustizia funzioni, a chiarire realmente tutto quello che è accaduto e che mi ha riguardato. Perché mi sembra, quello che dice lei, e quello che sembra a tutti, poi per carità, è che è il sistema che funziona così e lei era un pezzo, per un periodo forse è stato anche il centro di questo sistema, però lei era un pezzo di questo sistema. Guardi, proprio per questo motivo, se io ignorassi le critiche che nel corso degli anni ci sono state al sistema delle correnti e anche nella mia condotta, il mio comportamento, direi una cosa che non risponde al vero. Ero consapevole di far parte di un meccanismo, e voglio dirlo in maniera molto chiara, io mi sono sempre battuto affinché questo sistema potesse cambiare. Fatto sta che io in quel contesto, in quell'ambito, ero uno dei rappresentanti dei gruppi associativi, ne sono almeno quattro, diciamo, molto importanti, che animano la magistratura. E come avviene in quell'ambito, in quel contesto, uno dei rappresentanti deve necessariamente interloquire anche con i rappresentanti degli altri gruppi. Però Palamara, lei dice di aver sempre lottato contro questo sistema. Da quel che apprendiamo da queste inchieste, anche dalle intercettazioni che sono uscite con i Trojan, devo dire la verità, non pare proprio. Pare invece che lei fosse pienamente dentro e, per così dire, ben contento di gestire questo pezzo di potere. Allora, su questo non ho nessuna difficoltà a risponderle chiaramente in maniera aderente ai fatti, non diversa. Quando si registra una conversazione privata, una conversazione che tutti riteniamo poter essere considerata tale, evidentemente il linguaggio utilizzato non è sicuramente il linguaggio aulico consono a quello che dovrebbe essere il comportamento di un magistrato. È un linguaggio che risente sicuramente di una inflessione legata a quella che in quel momento stava realmente avvenendo, la spartizione delle norme, perché tra purtroppo, questa tipologia di accordi, le nomine spesso sono il frutto di estenuanti accordi nell'ambito dei gruppi associativi, nell'ambito del rapporto con la componente laica, nell'ambito del rapporto con la politica. E da questo punto di vista... Però dico, al di là del testo delle conversazioni, lei a questa pratica non si è sottratto? Cioè, lei dice, l'ho combattuta, però di fatto a questa pratica non si è sottratto? Assolutamente, ne sono stato protagonista. E questo non posso ovviamente negarlo, perché non lo dico io più, ma lo dicono autorevoli esponenti pure della magistratura progressista di area. Purtroppo la pratica clientelare all'interno della magistratura è una pratica diffusa che si è ulteriormente sviluppata nel momento in cui nel 2007 una legge dell'ordinamento giudiziario ha ulteriormente introdotto il principio della prevalenza del merito sull'anzianità, aumentando la discrezionalità del Consiglio Superiore della Magistratura e determinando una corsa sfrenata all'incarico. Questo è quello che è accaduto all'interno della magistratura. Una corsa sfrenata all'incarico, che a questo punto immagino Palamara non muoia con lei, questa corsa sfrenata all'incarico. Io ovviamente in questo momento sono chiamato a rispondere dei miei comportamenti. È ovvio che poi oggi si afferma che c'è un nuovo corso, un nuovo cambiamento. In questo momento sono uno spettatore e sono curioso di comprendere e di vedere come ovviamente questo cambiamento verrà realizzato. Quando è che inizia a fare i nomi? Guardi, pure su questo discorso vorrei essere molto chiaro. Io non ho bisogno di fare nomi o come dire, fare chiamate di corredità. Io penso che sia più importante invece cercare di ricostruire come realmente ha funzionato questo meccanismo, perché altrimenti diamo una rappresentazione diversa di quella che è accaduta. Se noi riteniamo che il sistema delle correnti è imperniato solo ed esclusivamente sulla figura di una persona e che questa persona ha mosso a suo piacimento pedine, persone, uomini, donne, diamo una rappresentazione non rispondente a quello che è realmente accaduto. Penso che a questo punto sia invece molto più importante mettere sul tavolo tutte le situazioni che sono accadute e verificarle, confrontarle, anche perché lei prima faceva riferimento alla registrazione di quella notte al Troia. Noi in quel momento abbiamo uno spaccato di un segmento di situazione, cioè l'accordo tra due gruppi associativi, in quel momento erano Unità per la Costituzione e Magistratura Indipendente, ma non sappiamo ad esempio quello che realmente stava avvenendo o poteva avvenire negli altri gruppi associativi, e quindi penso che sia invece interesse di tutti a questo sapere punto, comprendere questo. Nello specifico, tanto per essere più chiari, perché ad esempio la corrente di sinistra propendeva per Lovoi anziché per Viola, sarebbe adesso arrivato pure il momento di capire se effettivamente era vero che Viola dovesse in qualche modo favorire o agevolare la posizione processuale dell'onorevole Lotti. Sono tutte domande che sono rimaste in sospeso, così come è rimasta in sospeso la vicenda dell'esposto di un magistrato di Roma. Io penso che sono temi e situazioni sulle quali invece adesso, visto che la mia posizione è stata affrontata, sia molto importante confrontarsi. Mi sembra di capire, Palamara, che sia quasi una chiamata in correità di tutti, di tutto il sistema, la sua. Io penso che bisogna riflettere sul sistema, il sistema del quale ho fatto parte, rispetto al quale giustamente lei mi ha detto, ma lei era un protagonista, era un rappresentante, io in quell'ambito, in quel contesto ho operato, in quel contesto conosciuto da tutti, non conosciuto da me. Era un contesto rispetto al quale migliaia di magistrati si confrontavano, migliaia di magistrati avevano a che fare, è ovvio, oggi si dice no, ma questa è tutta opera di una persona sola, è una persona sola che si comportava in quel modo, noi in quel modo non ci comportavamo, noi stigmatizziamo, noi non usciamo con un politico indagato e via dicendo. Quindi, siccome ci sono tante situazioni e sfaccettature da affrontare, siccome oggi ci sono tanti magistrati che di quel sistema hanno fatto parte, che ricoprono cariche e ruoli importanti, penso che interesse proprio per dare anche tranquillità e sicurezza ai cittadini che con cui i magistrati hanno a che fare, che la giustizia si svolge secondo i reali canoni di autonomia e di indipendenza. Crede che invece c'è il rischio che la vicenda si chiuda con lei o quasi? Assolutamente sì. Ecco perché io penso che in questo momento in me prevale questa determinazione a ristabilire la verità, perché io mi sono sempre ispirato nella mia vita professionale, nella mia carriera, al di là degli errori sui quali ovviamente penso ci sia poco da dire, però mi sono ispirato sempre ai principi di una giustizia giusta, dell'affermazione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, e per questo motivo in questa fase ho pure aderito al Partito Radicale proprio per affrontare pubblicamente queste tematiche e queste situazioni. Si pente di come ha operato? Sicuramente devo impormi molto di più per affermare i principi per i quali io mi sono sempre impegnato nella vita politica associativa. Io ho sempre avuto nel mio animo la volontà di un cambiamento, la volontà di una politica non spartitoria e non correntista. Mi sono sicuramente adagiato poi su un sistema che invece dovevamo avere la forza dall'esterno in quel momento di cambiare molto di più. Si è prestato a questo sistema, in sostanza, dice. La parola prestato, cioè ex post dopo è facile, poi quando, come dire, a me sono veramente un appassionato di sport e del gioco di calcio, quando poi si gioca si fa la partita, quindi tante cose non ci si rende conto, si pensa di non stare dalla parte sbagliata e si pensa di comunque dover in qualche modo gestire un potere molto difficile, un potere interno, un potere dove c'è una forte ambizione personale, quindi di ovviamente caratterizzato da personalità molto importanti che dominano non solo la vita giudiziaria ma anche direi quella quasi pubblica, in parte politica del paese, e quindi gestire tutta questa situazione sicuramente non è una delle operazioni più facili. Però per fare un parallelismo, quello che avviene quando bisogna fare le nomine in politica, un'azienda pubblica, un'azienda manageriale. Voglio pensare alla RAI, voglio pensare al Parlamento, voglio pensare alle grandi aziende pubbliche. Quando si sceglie chi comanda è sempre difficile, le domande non sono solo di una persona, sono di 10 persone che ritengono di essere a torto o a ragione meritevoli di quel posto, meritevoli di quell'incarico. E quando si trova a dover dire chi va, e questo l'ho fatto io, e sicuramente il rischio di impattare in errori è alto. Grazie Luca Palamara, ex pubblico ministero, ex magistrato. A questo punto, se vedremo poi come andrà il suo ricorso, ed ex presidente dell'ANM. Saluto Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologia all'Università di Padova. C'è una pausa prima? Prima una pausa, mi scusi professor Crisanti, che è ritornata la pausa delle 8.45, una pausa. Eccoci professor Crisanti, mi scusi, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Grazie a lei, buongiorno. Eccoci qua. Cos'è, ce l'ha con il CTS professore? Ho visto che ha detto che la composizione non è un granché, dovrebbe rispecchiare un po' meglio la qualità del sistema accademico italiano. Ho sbagliato, ho capito male? No, guarda, io non ho detto che non è un granché, ho detto è sorprendente che non sia rappresentata il mondo accademico e scientifico italiano, tutto qua. Non è che ho, per carità, non ho voluto minimamente esprimere un giudizio sulle persone che ci sono, ho detto che sicuramente un contributo del mondo accademico e scientifico italiano potrebbe essere utile. Potrebbe essere integrato meglio, per così dire, professore, in sostanza il CTS dice. Ma voglio dire, poi ci sono tantissimi ricercatori che hanno gli ultimi 4-5 mesi hanno operato sul campo. E sicuramente, forse magari la loro esperienza potrebbe essere utile, l'ha detto anche Sileri, non è che l'ho detto io. Senta, professor Crisanti, vorrei portarla un po' sulle cose che stiamo vedendo adesso. A partire da, noi avevamo già parlato con lei a questi microfoni della riduzione della quarantena a addirittura una settimana, adesso pare che siano 10 giorni, e lei ci aveva detto, la letteratura ci dice che di massima, da quel che abbiamo visto, potrebbe andar bene. Per quanto riguarda invece il tampone, l'idea di fare un solo tampone per dare un solo tampone negativo per far uscire una persona dall'isolamento, concorda con questa scelta oppure no? Ma guardi, in genere quando comincia a esserci un tampone negativo, poi magari un tampone positivo, poi un tampone negativo, diciamo sicuramente il processo infettivo è in via di risoluzione, quindi non credo che abbia un grosso impatto permettere alle persone di uscire con un solo tampone negativo. In assoluto e sui tamponi, stiamo sbagliando la strategia, professore? Scusi, non ho capito sui la domanda. Sui tamponi, dico, stiamo sbagliando la strategia? Ma i tamponi, purtroppo, in una diagnosi sono l'unico strumento che noi abbiamo per fare sorveglianza attiva. Lei consideri che su 130.000 tamponi che noi facciamo ogni giorno in Italia, il 30% se ne vanno in screening di personale sanitario, l'altro 30-35% se ne vanno per controllo di persone già infette e rimangono soltanto 40-50.000 tamponi per fare sorveglianza attiva, che sono piuttosto pochi, anche perché consideri che più casi ci sono, più i nuovi casi assorbono la quota dei controlli dei malati, quindi sicuramente, e poi consideri anche un'altra cosa, che per ogni persona che sta male, che è positiva, in genere questo genera la necessità di controllare perlomeno 15-20 persone, quindi su 5.000 persone che sono state positive ieri, teoricamente avremo bisogno solo di 100.000 tamponi liberi solo per questi, senza contare tutte le attività di prevenzione. Lei ha detto che aveva sottoposto un piano per arrivare, mi pare, a 300-400.000 tamponi al giorno, però è stato sostanzialmente ignorato dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Vice Ministro. Evidentemente avranno avuto delle ragioni per farlo, io non condivido, ma chiaramente sono rispettabili anche quelle, ecco, mica uno ci deve avere sempre ragione, no? Sì. Senta professore, viaggiando a questo ritmo, rischiamo un nuovo lockdown secondo lei? Ma direi no, perlomeno penso che abbiamo in campo tutte le competenze, sicuramente la preparazione per averlo. Certo che se raggiungiamo i numeri della Francia, sicuramente alcune restrizioni dovranno essere imposte magari a livello locale o a livello di temporale. Per esempio, la Francia sta pensando di ridurre l'apertura di ristoranti, bar e ritrovi. Quello già può funzionare, dice lei. Già i provvedimenti che il governo ha in canna, quelli che dovrebbero essere varati oggi, sono già un buon elemento per ridurre il rischio dell'estensione dei contagi. Ma io penso di sì. Certo, l'impatto lo vedremo fra 2-3 settimane. Non è che si vedrà da un giorno all'altro. Sì, quindi non possiamo aspettarci subito là, no? Questo è il grande problema. Lo scoppio è ritardato e poi un po' l'urgenza con la quale vediamo i dati e ci si spaventa e poi la politica si muove, dice. Mi sembra di capire. Sì. Un po' questo. I tamponi, questi che vengono chiamati, mi aiuti lei, professore, così ci aiuta anche a far chiarezza, quelli rapidi, che estensione possiamo dare a uno strumento di questo genere, che affidabilità hanno? Ma guardi, i tamponi rapidi hanno una sensibilità, cioè la capacità di individuare un positivo che è tra il 65 e l'80% rispetto ai tamponi normali, quindi è chiaro che hanno un campo di applicazione diverso. Per esempio, sono molto utili nello screening di comunità, per esempio le scuole. Allora, noi usiamo un tampone rapido, vediamo che ci sono dei casi positivi e questo significa che c'è trasmissione in quella comunità. E a quel punto, per eliminare un'ulteriore trasmissione, dobbiamo passare col tampone normale. Il tampone rapido non può sicuramente essere utilizzato per circoscrivere e eliminare focolai, perché in ogni caso ce ne perderemo una certa quota. Sì, quindi su questo fronte non va bene. Lei immagina che saranno necessarie nei prossimi giorni ulteriori restrizioni rispetto a quelle che il governo già sta prevedendo in questo momento, ossia, appunto, l'abbiamo già detto, locali chiusi a mezzanotte, basta calcetto e sport amatoriale, in genere sport di contatto amatoriale, invece si può giocare a tennis, a padel e via dicendo. Ritiene che possano essere necessarie ulteriori restrizioni di qualche tipo? Come ho detto, adesso è una cosa che in questo momento non si può prevedere, perché gli effetti incominceremo a vedere tra un paio di settimane, e quindi tra un paio di settimane riusciremo a capire se l'effetto combinato della riapertura delle scuole, le riprese attività produttive e queste restrizioni riescono in qualche modo a riportare la situazione in equilibrio. Guardi, l'importante è rimanere con un numero di casi costante, e il problema è se i casi aumentano. Certo. Cioè, se faccio un esempio, se per un mese rimanessimo con 5.000 casi al giorno sarebbe un risultato incredibile, perché significa che la trasmissione è stata bloccata, no? Non è tanto il numero dei casi totale quanto la dinamica d'aumento che conta. Vedremo, quindi staremo a vedere. La ringraziamo, professor Crisanti. Grazie al professor Andrea Crisanti per essere stato ancora una volta con noi. Ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo domani mattina alle 6.30. Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli sempre in redazione, Margherita Ine e Francesco Ciaraffo i nostri autori. A domani, ciao. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Su aruba.it.